want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. One, two, two, two, hey, hey. Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica di Gigi Telesforo. Buon pomeriggio a tutti da Gigi Telesforo. Mi trovo in questo momento in uno studio di registrazione situato a Piazza Armerina, Enna, studio di registrazione che si chiama In Arte Studio, dove sono venuto a trovare il mio amico Giovanni Mazzarino, pianista, compositore, arrangiatore e direttore artistico del Messina Sea Jazz Festival, festival al quale ho partecipato l'estate scorsa anche in veste di docente per quel che riguarda la vocalità jazz. E in questo festival ho incontrato due ragazzi strepitosi, un trombettista e un contraltista, giovanissimi, 14 anni, che hanno già assimilato il linguaggio tipico del jazz, ma il linguaggio proprio del bebop, praticamente un Charlie Parker e un Dizzy Gillespie che arrivano direttamente dalla Trinacria. Allora io mi domando, e voglio chiederlo al maestro Giovanni Mazzarino, come mai questa terra esagerata, perché la Sicilia è una terra esagerata in tanti aspetti, la gente è esagerata per generosità, gente meravigliosa, i sapori, i profumi, il mare e tutto quello che di buono a questa terra, come mai continua a sfornare talenti strepitosi? Qual è il segreto? Perché i musicisti siciliani adorano il jazz? Ma intanto la Sicilia, intanto buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. La Sicilia sicuramente alla Sicilia bisogna pagare un tributo per la nascita del jazz. Diciamo, primo disco di jazz, 1917, New Orleans, Nick La Rocca. E poi tanti altri musicisti, a partire da Tony Scott, che era Tony Sciacca, musicista siciliano, e poi anche amici come Sal Genovese, no? Enzo Randisi. Enzo Randisi, questi diciamo i moderni. Ma il 75% dei musicisti bianchi tra il 1900 e il 1930 erano siculi americani o siciliani, insomma. Comunque, al di là, per quanto invece concerne Matteo e Giovanni, sono due musicisti che naturalmente si sono accostati al jazz perché naturalmente hanno ben compreso i meccanismi musicali e naturalmente amano questa musica che è straordinaria. Allora vado a presentarvi i gemelli Cutello. Chi è più gemello dell'altro, Matteo e Giovanni? No, una battutaccia, no, scusatevi. No, ma io voglio sapere, allora fammi vedere, perché io vi riconosco soltanto se avete gli strumenti in mano. Quindi Giovanni, tu sei il contraltista e Matteo il trombettista. Ho dei seri problemi con voi, perché praticamente vi somigliate molto anche da un punto di vista musicale. Conoscete il linguaggio del bebop? Come mai la passione per il bebop? Perché fin da piccoli a casa, soprattutto mio padre, ci ha sempre abituato ad ascoltare il jazz e in primis i dischi di Charlie Parker, e poi tutte le estati ci portava al festival di Rocella Ionica, e da questo ci ha fatto venire questa passione. Ma ascoltate anche altra musica, conoscete, che so, i One Direction oppure Justin Timberlake o Justin Bieber? Ci capita solo di ascoltare dai nostri compagni di scuola, ma non ascoltiamo questo tipo di musica. Quindi i vostri compagni di scuola vi prendono per degli alieni? No. Insomma, vi trattano comunque come delle persone normali. Però voi dovete sapere che non siete delle persone normali, perché a 15 anni Giovanni conoscono già il linguaggio del jazz e il linguaggio del bebop, che si sviluppò a partire dagli anni 40 a New York, a opera di musicisti che erano dei veri e propri innovatori. Quindi dal periodo delle big band, la musica che doveva divertire soprattutto nel dopoguerra, c'erano questi signori che invece pensarono bene di dirottare le sorti della musica, iniziando a improvvisare, iniziando a scrivere temi molto articolati. E allora un piccolo esempio, per esempio su un blues semplicissimo intitolato KC Blues, a opera di Charlie Parker, che qui porta con sé un giovanissimo musicista. Come si chiamava questo musicista? Miles Davis. KC Blues, Charlie Parker, al soundcheck di Radio 24. Thank you. Ci troviamo in Sicilia per il soundcheck per conoscere due giovanissimi interpreti del jazz di oggi, direttamente dalla Sicilia, i gemelli Cutello. È anche è già pronto il nome per registrare il disco, eh? Certo, certo che è pronto il nome. Lordy, help me find my Lordy and bring her home to me, cause I know she'll be as happy as can be when she finds that I just didn't know. And if she comes back home, I'll never let her go again. I promise I won't. She's sweet as she can be, and I am sure she means the whole world to me. Bless my soul if my baby ain't back home again. Il sound, la voce di Eddie Jefferson in Parker's Mood di Charlie Parker in questo appuntamento del soundcheck dedicato al bebop, a questo fermento musicale che si è sviluppato negli Stati Uniti, esattamente a New York, a partire negli anni 40. E parliamo di bebop, che è una musica che tutti i musicisti, soprattutto quelli che affrontano il jazz, devono conoscere, perché è proprio da lì che viene il linguaggio contemporaneo della musica. E siamo qui in Sicilia a parlarne proprio con i gemelli Cutello, che hanno appena compiuto 15 anni, sassofonista e trombettista, e non si sa per quale motivo hanno scelto questa come musica che sarà poi la loro compagna di vita. Il maestro Giovanni Mazzarino si sta cimentando sul suo pianoforte in questo bellissimo studio di registrazione, dove proprio in questi giorni stai producendo il primo disco dei gemelli Cutello. Che cosa significa registrare un disco a due musicisti che hanno 15 anni? Ma intanto è una cosa bellissima, un'esperienza stupenda, perché sia per loro, che chiaramente affrontano una cosa diversa che non hanno mai affrontato, ma è anche una grande scuola per noi musicisti professionisti che dobbiamo, per così dire, gestire, no? Gestire questi due talenti, perché sono due talenti straordinari. Allora, ragazzi, ditemi una cosa: siete in un bellissimo studio di registrazione e oggi praticamente c'è il battesimo del fuoco, quello che voi registrerete resterà per sempre, quindi dovete già pensare che fra 6 mesi, che la vostra arte sarà andata avanti e il vostro talento vi avrà già portato a conoscere altre cose, probabilmente non amerete quello che farete oggi, però in qualche modo resterà un segno di quello che siete voi oggi. Che cosa pensate effettivamente di fare da grandi? Beh, questo, cioè, vorremmo diventare musicisti, questo è il nostro indirizzo. Beh, anche per me è lo stesso, vorrei diventare anch'io musicista. Bene, con tutte le gioie e i dolori del caso. Allora, prima di andare alla musica, è una bellissima versione di Carmen McCree di Round Midnight, da un album con il quale celebra Thelonious Monk, vogliamo fare una piccola cosa bebop insieme? Facciamo Donna Lee di Charlie Parker? I gemelli Cutello al soundcheck. It begins to tell at midnight, round midnight. I do pretty well till after sundown. Supper time, I'm feeling sad. Soundcheck, il suono della musica. Eccoci pronti per il soundcheck di oggi, una puntata bebop al 100% per la presenza qui nell'Inarte Studio Recording di Piazza Armerina, provincia di Enna, in Sicilia, dei fratelli giovanissimi, quindicenni, gemelli Cutello, Giovanni e Matteo, sassofonista contralto e trombettista, che sotto la guida del maestro Giovanni Mazzarino per la prima volta entrano in uno studio di registrazione, e noi siamo venuti proprio a cogliere questo momento importante, il momento del battesimo battesimo del fuoco. Questi due ragazzi si sono già esibiti diverse volte dal vivo, io li ho conosciuti l'estate scorsa, sono rimasto folgorato tanto da accettare l'invito del maestro Mazzarino di partecipare a questa sessione di registrazione qui a Piazza Armerina. Allora, siamo pronti, ma come va avanti la carriera di due giovani musicisti come loro? Che cosa devono fare questi ragazzi? Ma sicuramente questi ragazzi devono fare quello che stanno facendo adesso, cioè quello di studiare, di essere... Loro sono molto seri da questo punto di vista e sicuramente proprio hanno un'attenzione, devo dire, certosina nei confronti della musica, del dettaglio musicale, e comunque al di là del bebop loro hanno anche una conoscenza armonica adesso notevole che sicuramente, insomma, gli permette di poter fare delle cose veramente importanti anche, diciamo, post bebop, no? Ecco, quindi questo devono fare loro e questo loro stanno facendo e loro del resto è quello che vogliono fare, e quindi è tutto in maniera molto, come dire, molto morbida, molto naturale, non c'è forzatura da parte di nessuno. Io cerco loro e loro cercano me, funziona così. Quindi è una cosa naturale, non c'è forzatura, dice il maestro Mazzarino. Ma voi frequentate la scuola, a parte lo studio dello strumento, frequentate la scuola, come andate a scuola? Bene, a scuola andiamo, cioè frequentiamo ora il secondo anno del liceo classico. Sì, a scuola siamo andati sempre bene. Però il pensiero qual è? Sempre rivolto alla musica, anche se studiate latino e greco, poi il pensiero è sempre a Charlie Parker e a Dizzy Gillespie. Sì, noi cerchiamo sempre di... Cioè, nonostante lo studio è sempre pesante, però ritagliamo sempre nell'arco della giornata uno spazio alla musica. Qual è lo studio pesante? Quello della musica o quello del greco? No, del... Cioè, soprattutto quello del greco. La musica è un divertimento alla fine. La musica è un divertimento. Mi sembra la cosa più bella e più sana. E questi ragazzi hanno colto al 100% che cosa deve essere la musica. D'altra parte in inglese si dice to play, I play music. Io suono la musica, ma anche io gioco con la musica. E un signore che si è sempre divertito con la musica è stato uno dei caratteri più positivi della storia del jazz. Un signore chiamato Dizzy Gillespie. Meraviglioso, uno dei personaggi con la storia, con una storia affascinante. Se Charlie Parker è considerato il patriarca del bebop, colui che poi l'ha trascritto e l'ha reso popolare e lo ha codificato è stato senz'altro Dizzy Gillespie. Infatti è uno dei musicisti, dico, più sottovalutati, no? Dei grandi musicisti, nel senso che comunque lui insieme a Bud Powell sono i teorizzatori del bebop, quindi sono quelli che hanno veramente inventato questa invenzione non inventata del bebop. Ecco, musicista molto curioso che ha anche importato negli Stati Uniti le ritmiche afro-cubane per la grande passione che aveva per i musicisti di quella bellissima isola. E qui ascoltiamo infatti Dizzy Gillespie in un esperimento fatto nel 1963 con una band vocale, i famosissimi, bravissimi Double Six of Paris. Il brano è una sua composizione intitolata Tintindeo. Ragazzi, allora ho rubato del tempo alle vostre registrazioni, adesso vi lascio, abbiamo ancora pochissimi minuti, ma soltanto per presentarvi una versione in chiave bebop di un altro classico di Dizzy Gillespie intitolato A Night in Tunisia, qui nella versione intitolata And the Melody Still Lingers On di Chaka Khan. Conoscete Chaka Khan? No. Bene, allora ve la presento io, una signora nera abbastanza carnosa con una voce meravigliosa che viene dal rhythm blues ma ha sempre avuto la passione per il jazz, e qui la sua versione innovativa di Night in Tunisia del 1981 con la partecipazione di Herbie Hancock, e c'è il famoso stop chorus di Charlie Parker riproposto proprio dal sassofono originale di Charlie Parker doppiato da Herbie Hancock. Infatti maestro Mazzarino, ti ringrazio e ti saluto e ti voglio bene. Grazie anche io. Ciao. Buona giornata a tutti e buona musica qui dal soundcheck di Radio 24. A long time ago in the 40s. Soundcheck. Il suono della musica.